sick, look sick. La galera è di passaggio, fanculo alle sbarre. Non puoi fottere la dark, fanculo alle guardie. Non mi fido di nessuno, fanculo a chi parla. DPG, 777 strada, questa è la banda. La galera è di passaggio, fanculo alle sbarre. Non puoi fottere la dark, fanculo alle guardie. Non mi fido di nessuno, fanculo a chi parla. DPG, 777 strada, questa è la banda. Vestito fresco e nero per andare al colloquio. Mio fratello ha re bibbia al polso, dai Donatorio. 9 anni da scontare, quando esce fa il botto. Serpoletta per dar polio, Rione Monti è già culto. La mia banda è 777, fanculo il tuo blocco. In questa merda rapper gioco, fanculo il tuo orgoglio. Sto con Darkside, baby, no, non compro coi saldi. Finisci perso nel bosco, fai la fine di Bambi. No, non canto con le guardie, tu allo zecchino d'oro. La mia gente se fa l'anni pur di non snicciare il blocco. Sì, look per dar polo, pronti a fottere il mondo. Sto fumando un pacco di oggi, pronti a fottervi il posto. Tony F, scritto sul culo della mia lei. Cintura Barberi, capello fresco per marcare bene. Contanti in tasca, troia non mi manca niente. Se non parli di soldi allora non dire niente. La galera è di passaggio, fanculo alle sbarre. Non puoi fottere la dark, fanculo alle guardie. Non mi fido di nessuno, fanculo a chi parla. DPG, 777 strada, questa è la banda. La galera è di passaggio, fanculo alle sbarre. Non puoi fottere la dark, fanculo alle guardie. Non mi fido di nessuno, fanculo a chi parla. DPG, 777 strada, questa è la banda. Vogliono fermare la dark, fanculo alle guardie. Siamo i numeri uno, fanculo tutti gli altri. Non facciamo conversazione, giuro su mia madre. Hai parlato e dovevi farti solo 2 anni. Levarmi la catena in strada, vorrei che ci provassi. Legittima difesa, ti cambio la faccia. Carcerati, casino, in cella e gli cambiano il braccio. Liberato ogni ragazzo che sta facendo gli anni. Sto provando a essere ricco insieme ai miei compagni. E comprare case grandi, auto di lusso, avvocati. Fotti con me, 50 ti spappola come un avvocato. Fanculo giudice o chiunque, non piscio in un barattolo. Sto fumando a GQ 100 grammi dentro al barattolo. E non patteggio, non parlo gang, 777 al patto. Vorresti toglierci di mezzo ma non sai come farlo. Sta roba è nostra, ci prendiamo tutto quest'anno.